Essere e benessere di Nicoletta Carbone. La prima impressione è quella che conta, ce lo dicevano le nostre mamme nel raccomandarci di presentarci belli puliti, ordinati ad un esame, ad un appuntamento, ad un colloquio di lavoro, e tante volte abbiamo proprio toccato con mano che avevano ragione. Fare buona impressione aiuta. Sarà questione di pelle, di feeling, di ferormoni. Ci sono persone che ci piacciono subito, ma è crudelmente vero anche il contrario. Ci sono facce che proprio non ci piacciono, non ci convincono, ci insospettiscono, ci maldispongono. Sarà capitante anche a voi, immagino. Ma per questo mi piacerebbe parlarne insieme, invitandovi però a mettervi anche dall'altra parte. Ricordiamo che ciascuno di noi è altro per gli altri. E la nostra faccia, i nostri occhi, il nostro modo di muoverci, di gesticolare, di schiarirci la voce, il nostro modo di vestirci, fanno scattare in chi abbiamo davanti quell'impressione che, volenti o nolenti, condiziona la nostra relazione futura. Io aspetto come sempre le vostre chiamate, che mi auguro numerosissime. Pensate che il vostro senso sia infallibile oppure vi siete dovuti ricredere? E quali sono i dettagli, chiamiamoli così, che condizionano il vostro giudizio? E quali sono i dettagli invece su cui puntate voi per fare buona impressione? 800 24 00 24. Intanto Laura Vanossi aveva già lanciato il nostro tema sul nostro profilo Facebook e alcuni di voi ci hanno già mandato dei messaggi. Giuseppina ci scrive: aspetto curato, modi gentili, educazione, rispetto per gli altri ci aiutano a renderci gradevoli agli occhi dell'altra persona. Poi occorre mostrare la mente, l'essere. Mentre Laura ci insegna che non c'è mai una seconda occasione per fare una buona prima impressione. Io vi invito a chiamarci subito. Devo ricordarmi anche di dire che noi possiamo essere scaricati, come tutte le altre trasmissioni, per cui fatelo. E intanto vado a salutare un uomo giusto, Enrico Silvestrin, attore, protagonista di un film. Ciao Enrico. In questi giorni nelle sale, come trovare nel modo giusto l'uomo sbagliato, un film di Salvatore Allocca e di Daniela Cursi Masella. Enrico, adesso posso salutarti per bene. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Enrico, quando incontri una persona, tu che cosa guardi? Ci sono i vari stadi, no? Il primo assolutamente legato alla vista, quindi al piacere dell'occhio, anche se qui poi si aprono un'infinità di distinguo, perché magari quello che non piace all'inizio può piacere dopo un'ora, o viceversa, quello che ti piace all'inizio può non piacerti più dopo un po' di tempo. Quindi bisogna vedere come attecchisce la persona. A questo va accompagnato un carattere, una personalità, che quindi sembra una cosa piuttosto ovvia da dire, ma senza di quello poi non si fa nessun salto di qualità, insomma. Senti, Enrico, però tu ti lasci condizionare dalla prima impressione? Cioè, ci sono delle persone che dici mi piacciono a pelle e poi magari... No, proprio perché c'è questa cosa che può mutare. Quindi no, anzi, spesso posso io autoimpormi, cioè darmi un giudizio che può essere severo oppure viceversa, un giudizio di manica larga, ma poi alla fine non attecchisce col tempo, insomma si perde, cioè si trasforma inevitabilmente. Quindi. Sei un saggio. Senti Enrico, tu che sei un attore, naturalmente tieni in grande considerazione il giudizio del pubblico, perché è molto importante, ma come reagisci alle critiche? Dipende, anche questo dipende dalle fasi della tua vita, insomma. Quando ero più giovane magari le critiche reagivo come se fossero un colpo al cuore, quasi mi stupivo che mi si potessero muovere delle critiche. Poi invece crescendo ti rendi conto che le critiche sono anche molto utili quando passi a una gestione della tua persona professionale in una maniera più completa e più oculata. Devi stare molto attento a come ti percepiscono le persone, perché se ti percepiscono in una certa maniera vuol dire che tu stai contribuendo a fare in modo che tu possa che loro ti vedano così. Modo, Senti, nella vita privata invece quanto conta quello che gli altri dicono di te? Sei... Ma più o meno zero, nella vita privata non ne tengo assolutamente. Cioè, nel... Veramente? Ma dipende, dipende, perché bisogna sempre anche lì guardare chi e perché parla, insomma. Molte persone possono parlare per invidie, per antipatia a pelle mascherate per amicizie e tante altre cose. Lì ascolto i fidati. I fidati, che sono proprio gli amici quelli di vecchi. Obiettivi. Ecco. Senti, intanto abbiamo Massimo che ci chiama da Livorno. Massimo, buongiorno. Buongiorno a voi e al suo ospite. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Allora. Eccoci. Dicevo la sua collega, dunque io ho 30 anni che faccio rappresentante e 25 anni che faccio musica, quindi sono sempre a contatto naturalmente con personaggi diversi, però diciamo l'esperienza mi ha insegnato secondo me una cosa, che il sorriso sulle labbra non ti predispone sempre bene di fronte, con chi hai di fronte, insomma. Non è difficile che qualcuno dica il famoso contatto a pelle, questo mi sta antipatico. No, è difficile, perché quando hai il sorriso sulle labbra penso che... È difficile che l'altro ti morda, eh? Ma sicuramente penso di sì. Grazie Massimo. 800 24 00 24, il primo suggerimento ci viene da Massimo. Enrico, tu sei d'accordo? Assolutamente. È un buon biglietto da visita. Sì, infatti tra l'altro nelle scuole di o marketing o diciamo di rapporti manageriali, l'altro, la prima cosa, una delle prime che ti insegnano è proprio quella di essere sempre molto pacato, accomodante e sorridente. Grazie ad Enrico Silvestrin, che possiamo vedere in questi giorni nelle sale cinematografiche nel film Come trovare nel modo giusto l'uomo sbagliato. Sei un uomo giusto o un uomo sbagliato tu? Dovrebbe farlo dire alla mia compagna. Va bene. Non lo so, posso essere l'uno e l'altro a seconda di come mi pongo anch'io. Volevo fare una nota di menzione per anche le protagoniste femminili del film. Il film si regge soprattutto su di loro. Sono Francesca Inaudi, Giulia Bevilacqua e Giorgia Surina. Grazie ad Enrico Silvestrin. Dicono di me che sono un bastardo bugiardo e lo fanno senza un perché. Che cosa dicono di voi e che cosa dite voi degli altri? 800 24 00 24, in studio una coppia che ci aiuterà a non sbagliare, a sbagliare un po' meno. Alberto Pellai, medico ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta. Alberto, ciao. Ciao Nicoletta, buongiorno. E abbiamo anche il professor Giampaolo Perna, direttore scientifico e primario presso la Casa di Cura San Benedetto ad Albese Concassano. Buongiorno a tutti. Sono sempre più brava, adesso finalmente riesco a dire di filata la sua qualifica. È professore all'Università di Maastricht in Olanda. Professor Perna, il nostro ascoltatore diceva per fare buona impressione, un bel sorriso è un buon biglietto da visita e i problemi, no? Diventano, cioè i problemi, il contatto diventa molto più facile, così? È così, ma bisogna vedere cosa c'è dietro il sorriso, perché noi sappiamo benissimo che esiste il sorriso falso e il sorriso falso viene beccato molto facilmente, esiste quello genuino. Qual è la differenza? Che il vero sorriso lo si fa con gli occhi. Perché? Perché il muscolo degli occhi è controllato soltanto dalla nostra parte emotiva, qui non si può fingere, mentre noi sappiamo che il muscolo attorno alle labbra viene controllato anche volontariamente, quindi se noi proviamo a fare un sorriso falso lo possiamo fare con le labbra. ma gli occhi parlano. Quindi questo certo. L'hanno detto molti, è una cosa, è una storia antica ma assolutamente vera. Quindi molto spesso la capacità di guardare negli occhi una persona vuol dire capire se quello che sta manifestando in quel momento viene davvero da dentro, dal cuore, oppure se è una finzione. Questo è molto importante. Alberto, ci sono delle persone che si lasciano condizionare più dall'aspetto fisico, altre dal linguaggio non verbale, dal modo in cui appunto la persona si muove, da quello che dice. Ma io penso che in realtà l'autenticità della persona che abbiamo di fronte, l'autenticità che si rispecchia nel nostro essere autentici dentro una relazione, sia poi la chiave che ci introduce al mondo delle relazioni in modo competente. Tra l'altro, quello che apparentemente molti chiamano istinto, cioè io per istinto so riconoscere la persona che ho di fronte un po' a prima vista, credo che sia invece una competenza più complessa che sta scritta nel nostro cervello e probabilmente legata ai famosi neuroni specchio, e ci permette di sentire quello che l'altro sente, quindi in qualche modo crea una situazione di sintonia e di sincronia, per cui improvvisamente io riesco a decodificare proprio il dentro della persona guardandola fuori. Questa è una straordinaria competenza che qualcuno ha naturale e per cui gli riesce molto facile costruire buone, sane, autentiche relazioni, e poi qualcuno costruisce in una dimensione di lavoro, perché gli consente, sapendo i trucchi del mestiere, a volte poi di manipolare tutto il sistema a proprio vantaggio. Oggi qualche trucco lo impareremo, perché qualche trucchetto serve sempre, ma soprattutto cercheremo di capire quanto siamo arroccati sui nostri giudizi e quanto il giudizio degli altri ci condiziona, la paura del giudizio degli altri. Leggevo proprio di recente, Alberto, anche proprio per i bambini che stanno affrontando l'inizio della scuola, i ragazzi sono molto più sensibili al giudizio dei compagni, al gruppo di riferimento dei pari, piuttosto che ai voti scolastici, al rendimento. Questa la dice lunga. Certo, e soprattutto in alcune fasce d'età, in alcune fasi della vita, pensa alla preadolescenza o l'adolescenza, dove la sfida evolutiva di quel momento è entrare nel gruppo dei pari, essere accettato dal gruppo dei pari. Questo è proprio un ambito in cui in qualche modo ti giochi il successo esistenziale, e quindi essere accettati, essere ben accolti, essere dentro e non essere fuori diventa fondamentale. Anche oggi per a vostra disposizione alcuni dei libri della nostra libreria di Essere Benessere. Per riceverli a casa dovete naturalmente chiamare all'800 24 00 24 e diventare un po' nostri coach, allenatori. Raccontateci come riuscite a fare buone impressioni agli altri e nello stesso tempo come riuscite a riconoscere una persona per bene che avete davanti, una persona che sapete che vi piace, ma potete anche ricevere a casa un libro raccontandoti delle storie che avete vissuto in prima persona, storie di cui siete stati protagonisti, perché magari avete preso un granchio, una persona che non vi piaceva assolutamente si è dimostrata poi una persona assolutamente affidabile, oppure il contrario. Quindi 800 24 00 24. Adesso noi andiamo a cercare di capire come si fa una buona impressione, quali sono le cose da fare e quelle che vanno evitate. Ci facciamo aiutare dal dottor Gabriele Traverso, psicologo e psicoterapeuta. Buongiorno. Buongiorno a voi, bentrovati. Allora, tutti vogliamo fare una buona impressione, non sempre ci riesce. Ci sono poi delle giornate in cui ci alziamo proprio col piede storto, in cui ci sentiamo inadeguati. Questo è assolutamente vero. Bisogna anche tener conto che fare una buona impressione è, diciamo così, l'obiettivo di tutti, non sempre ci si riesce, però bisogna imparare ad accettare ogni tanto anche i fallimenti. Allora, proviamo a raccomandare ai nostri ascoltatori alcuni piccoli trucchetti per fare buona impressione? Ma sì, proviamoci. Allora, ammettendo che ci si alzi col piede giusto, quindi che praticamente tutte le potenzialità siano al massimo della loro espressione, fare una buona impressione richiede soprattutto, sembra una banalità ma è assolutamente vero, essere per quanto possibile se stessi senza alterare più di tanto le proprie abitudini e le proprie peculiarità. Voglio dire, una persona che è tendenzialmente timida non potrà mai essere in condizioni tali da potersi proporre in un modo straordinariamente vivace, e quindi deve fare in modo che anche determinati difetti possano diventare delle virtù a lungo andare. Certo. Allora, noi che cosa nel primo incontro? Noi adesso stiamo parlando di incontri a tu per tu con delle persone che possiamo avere il piacere o l'obbligo di incontrare per lavoro, o magari l'amico presentato dall'amico. Poi affronteremo anche con Alberto Pellai degli incontri più impegnativi, quelli che aspetteranno gli insegnanti che adesso che si riprende la scuola si troveranno di fronte delle intere scolaresche. Quindi l'invito è, se siete degli insegnanti, iniziate a chiamarci. Dottor Traverso, allora, quindi bisogna cercare un po' di sintonizzarsi sull'altro. Beh, sicuramente le modalità comunicative più efficaci si sono dimostrate quelle in cui i reciproci sentimenti sono sufficientemente in sintonia, quindi è assolutamente importante riuscire, oltre che ad essere presentabili nel senso globale del termine, anche a riuscire proprio a sintonizzarsi su quello che è quella che è l'esigenza, l'aspettativa, lo stato d'animo, le sensazioni di chi abbiamo di fronte. E quindi è importante comunque sia riuscire a rispecchiare quello che il nostro interlocutore in quel momento ci sta rimandando. Questo fra l'altro rimanda proprio al primo approccio legato ad un incontro, che è quello proprio di trovare prima di tutto la distanza giusta nei confronti di un interlocutore. Qual è la distanza giusta? Beh, in psicologia si parla normalmente di tre tipi di distanze. Un tipo di distanza è quella che viene definita sociale, che è ad esempio quella dell'insegnante in cattedra e degli allievi seduti ai loro banchi, perché effettivamente è quel tipo di distanza che tra le altre cose rappresenta anche una certa diversità di ruoli e quindi evidentemente anche una differente impostazione della relazione. C'è poi la distanza intima, che è quella amicale, affettiva, sentimentale, che rappresenta quasi quasi un contatto pelle a pelle, se non pelle a pelle, diciamo di pochi centimetri. La distanza migliore nel momento in cui è necessario far valere la cosiddetta prima impressione è quella che viene definita proxemie, cioè praticamente quella distanza di qualche decina di centimetri che consente di essere sufficientemente vicini all'interlocutore, non troppo distanti da mostrare diffidenza, ma neanche troppo vicini da dimostrare invadenza. Amore a prima svista, film del 2001, diretto dai fratelli Bobby e Peter Farrelly. Senti, so che hai un grande cuore. Sei solo leggermente fissato sull'aspetto esteriore delle persone, perciò Harold Larson ti farà un grande favore. Davvero? Sì. Ascolta, ecco cosa accadrà. Da questo momento, quando tu incontrerai qualcuno, vedrai solo la sua parte interiore, la più profonda, e ti relazionerai con quella, perché, amico mio, è lì che si nasconde la vera bellezza. Che cosa ne pensate? 800 24 00 24. Andiamo subito a sentire Enzo, che ci chiama da Bologna. Benvenuto Enzo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Niente, solo una piccola esperienza di qualche anno fa, quando dovevo affittare un appartamento e quindi mi sono trovato per la prima volta a avere contatto con delle persone, dover in qualche modo scegliere la persona a cui affidare il mio appartamento. Quello che ho fatto caso è più che altro il discorso delle persone che ti guardano negli occhi oppure no. Cioè, ho notato che le persone che tendono a guardare altrove, non magari per un discorso di timidezza che diceva il professore prima, ma proprio questo impatto, no? Cioè, il fatto che una persona non ti guarda negli occhi mi crea un attimino di diffidenza. Non so se è una regola generale che si può applicare per tutti, però ho notato che spesso e volentieri queste persone non erano affidabili. Ecco, tutto qui. Questa è una piccola esperienza che ho avuto. Questo io. È un suggerimento che ci arriva da Enzo da Bologna, professor Perna? E vale sicuramente il discorso che mi ha fatto prima, cioè gli occhi sono una delle zone genuine e quindi il fatto che uno nasconda gli occhi, comunque, se non è questione di ansia o timidezza, certo, è un segnale forse che c'è qualcosa che non va bene, quindi è vero, è vero. Margherita da Roma, buongiorno, prima dei mercati. Margherita? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno. Mi dica lei. Io ho avuto esperienze nella mia vita, ormai abbastanza lunga, di vivere all'estero e di ricominciare ogni volta un minimo di amicizie con le persone che poi avrei frequentato negli ultimi, in quel periodo. E stranamente le prime persone che ho incontrato, le prime quattro persone conosciute all'inizio, poi sono diventate le mie amiche. E questo mi capita abbastanza spesso, di riconoscere le persone che mi sono congeniali, diciamo. Lo sente, a pancia, naso, istinto. Margherita riconosce le amiche. Speriamo che faccia amica anche a noi di Essere Benessere. Grazie Margherita. Devo scappare perché ci sono i mercati, tengo i miei ospiti insieme a noi, voi continuate a chiamarci 800 24 00 24, potete come sempre giocare tra virgolette su due ruoli, suggerirci voi che cosa fare, quindi essere dei nostri coach, come si usa dire adesso, degli allenatori, oppure raccontarci delle storie, delle vostre difficoltà, chiederci un aiuto, come ci fa Patrizio che ci scrive: stasera è il mio primo giorno da allenatore, sono un po' teso, i primi giorni sono fondamentali per instaurare un buon rapporto, datemi un consiglio. A tra poco. Essere e benessere. Vorrei provare ad essere un'altra persona per vedere me stesso come mi vedono gli altri. Vorrei sapere qual è l'impressione che prova chi non sa per nulla quello che faccio e che sono quando cammino. Dottor Traverso, riprendiamo il passo. Le persone ci guardano, ci osservano, ci giudicano. Cosa bisogna evitare assolutamente di fare al primo incontro? Beh, sicuramente visto il principio di cui abbiamo parlato prima, quindi la necessità di avere una sintonia più o meno adeguata con quello che è lo stato d'animo dell'interlocutore, sicuramente non imporre mai il proprio umore, le proprie idee, il proprio stile comunicativo, ma essere così flessibili da riuscire ad adattarsi a quello dell'altro, e poi pian piano nel tempo si riuscirà anche ad essere un pochettino più impositivi se quello è proprio il nostro scopo. È importante in secondo luogo essere concentrati sulla persona, come si diceva prima, gli occhi, se anche non sono sempre lo specchio dell'anima, sicuramente le danno una grossa mano, quindi è importante comunque contribuire anche con quello che genericamente, non solo con lo sguardo, viene definito comunicazione non verbale. E poi il terzo consiglio, che è un aspetto che da quello che vedo, da quello che so, rappresenta uno degli aspetti veramente più difficili da gestire da parte di un potenziale interlocutore, è evitare di toccarlo, perché significa come toccarlo? Come toccarlo? Toccarlo nel senso che ci sono tante persone che nel parlare, nel gesticolare, nell'incontrare anche una persona conoscendola per la prima volta, istintivamente, perché evidentemente questo è il loro stile comunicativo, abbracciano, danno un bacio sulla guancia, la pacca sulla spalla o altri gesti che comunque hanno un senso certamente amicale, non ci sono sicuramente, però devo dire, proprio osservando anche la gente, credo che anche i nostri ascoltatori abbiano qualche esperienza del genere, personale o indiretta, io credo che in diversi casi questa invasione sia veramente difficile da sopportare. Grazie dottor Traverso, chiederemo ai nostri ascoltatori di raccontarci anche questo, no? Questo aspetto, di se hanno esperienze, vi danno fastidio, un po' fastidio Alberto Pellai, sì, perché io lo abbraccio sempre, lui non vuole, le persone che vi toccano vi invadono un po' fisicamente, 800 24 00 24, intanto grazie dottor Traverso, ma se... Nonostante tutti gli sforzi, scopriamo che il giudizio su di noi non è favorevole? E se nonostante tutti gli sforzi scopriamo che il giudizio su di noi non è favorevole? Se qualche volta, appena avvertite di non essere per gli altri quello stesso che per voi, che fate? Siate sinceri. Nulla fate, o ben poco. Ritenete al più, con bella e intera sicurezza di voi stessi, che gli altri vi hanno mal compreso, mal giudicato, e basta. Se vi preme, cercherete magari di raddrizzare quel giudizio, dando schiarimenti, spiegazioni. Se non vi preme, lascerete correre, scrollerete le spalle esclamando: «Oh, infine, ho la mia coscienza e mi basta». Luigi Pirandello, 1, nessuno, 100.000. Vanni, buongiorno, ci chiama dalla provincia di Padova, 800 24 00 24. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Vi ringrazio. Io parto dal presupposto che la responsabilità del messaggio è sempre mia. E quindi mi chiedo sempre quali sono le cose che posso fare e che cosa posso dire, perché tre elementi che volevo dare come contributo, che a me sono serviti tantissimo, sì, sia nella vita privata che in quella della relazione di lavoro. Il primo è riuscire a procrastinare il giudizio, quindi non emettere nessun giudizio nei confronti della persona, ed in modo particolare proprio nei primi minuti in cui mi sto relazionando con la persona. Sì. Il secondo elemento è quello di, tra virgolette, innamorarsi di un particolare della persona, cioè avrà un qualche cosa di buono sia nell'aspetto esteriore piuttosto che nel suo modo di porsi comunque, ma trovare un elemento che mi piaccia, perché questo fa sempre emanare un segnale positivo comunque verso la persona. E poi io non mi collego mai a quello che è avvenuto nel passato, quindi con relazioni o esperienze passate, perché quella lì è un'esperienza completamente nuova, cioè ogni volta ci si gioca una carta nuova. Ecco, quindi gettare un ponte verso la persona con questi tre elementi semplici e comunque, per quanto mi riguarda, anche abbastanza efficaci. Ecco, questo è. Ma sono elementi molto importanti, perché cercano di razionalizzare un attimo quello che è l'istinto emotivo di una persona. Ma bisogna andare, secondo me, a stare molto attenti al significato dell'intuito, perché noi sappiamo che l'intuito guida tante decisioni umane. Facciamo un esempio che non c'entra, ma che è molto pertinente, e vedremo nel ragionamento. Un clinico, io sono medico, dopo molti anni sviluppa un grande intuito, perché basta che osserva una persona e capisce immediatamente. Non perché sia un genio, ma perché ha accumulato talmente tante esperienze che diventa automatico dare un giudizio. Così, quando noi sentiamo nello stomaco qualche cosa, è perché le esperienze passate che abbiamo avuto incontrando persone ci fanno dire che alcune persone sono più vicine a noi, più coerenti con noi, e alcune persone ci fanno bene, mentre altre male. Per cui ascoltare lo stomaco spesso è molto prezioso, quindi io credo che bisogna procrastinare il giudizio, sono d'accordo, ma tenendo ben presente il messaggio del nostro corpo, che è molto importante. A proposito di messaggio del corpo, a Vanni, che ci ha suggerito questi tre buoni consigli per fare buona impressione, vorrei far ricevere a casa Massaggio Facile, questo libro edito da Vallardi, che insegna diverse tecniche di massaggio, e che con Laura Vanossi abbiamo più volte, da cui abbiamo più volte attinto per i nostri consigli. Grazie al nostro ascoltatore, direi che è tempo di sentire invece Paolo, che ci chiama da Firenze, ma Carmelo Lauricella mi avverte che è tempo della viabilità. Paolo, buongiorno a lei. Buongiorno. Sai che devo chiederle di stare con me, di accompagnarmi e di sentirci dopo la viabilità? Mi accompagna? Non c'è problema. Grazie Paolo, a tra poco. Paolo, eccoci. Sì, eccomi. Allora, come detto prima, io mi considero, ormai nella vita ho imparato a essere il maestro della prima impressione sbagliata, che solitamente è quella che io do agli altri. Dai, in quanto, se io lo dovessi descrivere come sono fatto, io in questo momento ho un paio di anfibi molto ingombranti, un paio di pantaloni militari, una maglietta nera, i capelli neri molto lunghi, la barba rossa molto lunga e le unghie smaltate di nero. Io posso comprendere che a una persona, diciamo, non voglio dire normale, diciamo standard, sì, il mio aspetto fisico potrebbe, diciamo, avvertire un giudizio. Sì, ma è quello che lei vuole, no, Paolo? Esatto. Perché io sono una persona normalissima, in quanto lavoro nella stessa azienda da molti anni, faccio l'operaio, dono il sangue, sì, faccio volontariato, credo di fare una vita abbastanza normale. a riguardo, prendendo come presupposto la vita che potrebbe fare chiunque. Sì, però questo abbigliamento che... E l'abbigliamento di oggi è anche abbastanza normale, diciamola tutta. Ma questo sì. Cosa mi comporta? Mi comporta che spesso e volentieri vengo travisato per quello che sono, cioè vengo visto in malo modo. Però, come si suol dire, però lei ha la barba, ma se ne fa un baffo di questo, Paolo. Esatto. E perché invece, continua, smalto nelle unghie nere, barba rossa, capello nero lungo, un po'... Esatto, e questo mi ha aiutato moltissimo in realtà. Perché poi quelli che restano sono quelli che vanno al di là delle apparenze, Paolo. Esatto, esatto. È un bellissimo filtro. È un bellissimo filtro per evitare le persone che danno giudizi affrettati sull'aspetto della gente, sì, senza soffermarsi a pensare, ma perché questo si veste così? Paolo, grazie per averci chiamato all'800240024. Se qualcuno passa da Firenze riconoscerà sicuramente il nostro amico Paolo. Ma credo che nel messaggio di Paolo però ci sia davvero un messaggio, un concetto fondamentale. Paolo è molto sicuro di se stesso, Paolo sa chi è, e Paolo perciò lavora molto più sul contenuto che sul contenitore. Direi che questa è un po' la cartina tornasole, cioè se tu sai chi è, come ti presenti agli altri è solo una delle tante cose che compongono poi il giudizio che gli altri daranno di te. E invece chi è così attento, così dipendente dall'immagine che di sé dagli altri nel primo incontro si gioca tutto lì, ecco, quella è probabilmente una persona insicura. Certo che ci sono colloqui di lavoro, esami, situazioni critiche nella vita dove il contenitore arriva prima del contenuto. E quindi io direi a Paolo grande sicurezza nella vita e nelle relazioni, ma forse se un giorno deve andare a fare un colloquio di lavoro o un concorso, curare, magari cambiare il colore dello smalto. Voilà. Alberto, abbiamo anche Patrizio a cui avevamo promesso un consiglio, quindi a Patrizio che si deve preparare per il primo giorno da allenatore, è un po' teso, gli diciamo smalto, capello lungo, anfibi, occhiali neri, magari no. Magari tre consigli veloci, sì. Cioè lo direi a tutti gli insegnanti che per esempio entrano in una classe di scuola media, cioè ciò che siete passa attraverso il vostro sguardo, come ha detto prima il professor Perna, quindi guardare negli occhi è proprio un segnale automatico di relazione. La voce, moltissimi usano la voce come strumento di potenza, cioè io valgo più di te, quindi la alzano, la scrillano, la gridano. Invece la voce va proprio modulata come strumento di relazione, quindi entrare in una classe guardando tutti negli occhi, usando la voce in modo tranquillo e perciò essendo padroni della propria voce. E poi la posizione, cioè quella distanza sociale che fa dire, può essere che proprio nel primo giorno io non la uso, cioè io sono autorevole, so stare anche seduto su una cattedra, vi guardo tutti negli occhi, vi racconto chi sono, ma sono interessato anche a sentirmi raccontare chi siete voi. Giocare molto più sul noi invece che sull'io, usare non la potenza ma la competenza. Questo probabilmente costruisce nel primo incontro con un gruppo classe un'idea di relazione che può durare in modo efficace e valido per tutto l'anno. Serenella ci chiama dalla provincia di Padova. Buongiorno Serenella. Io chiamavo in merito al fatto di toccare le persone. A me capita da sempre, credo, di, oltre che quando conosco una persona, abbracciarla, baciarla, sì, ma anche in altri momenti proprio di toccarla, la classica appoggiare la mano sulla spalla o altre cose. E mi è capitato in due situazioni, un collega dopo diverso tempo e una ragazza che frequentava con me un corso di danza, sì, che mi hanno detto, guarda, mi dà fastidio essere toccato. E io ci sono rimasta malissimo perché avrei voluto scavarmi una sprofondare, diventare trasparente dentro. E anche se poi ho detto, vabbè, io capisco che loro avevano questo problema, se non me l'hanno detto prima, io ero dispiaciuta perché non me l'avessero detto prima, perché soffrissero di questo disagio nei miei confronti. Perché ci sono delle persone, prima, Serenella, che si sentono come invase dall'interlocutore. Che toccare le persone. Anche a me piace molto, soprattutto le persone che conosco, certo. La capisco, Serenella, perché io sono una un po' dall'abbraccio, sono professor Perna. Ma io direi che dobbiamo considerare anche il fattore culturale oltre che personale, perché è chiaro che nei popoli molto più caldi, molto più intimi, in qualche maniera il contatto fisico è più normale, no? In popoli che sono un po' più freddi ci tende a mantenere la distanza, quindi l'abilità sta quello nel comprendere l'interlocutore, la persona davanti, perché chiaramente se io sono una persona molto molto calda e mi trova davanti un nordico, no? Mm-hmm. Che mi dà del lei, è chiaro che dovrò limitare la distanza. Certo. Se trovo una persona molto più esuberante, magari anche del sud, quindi capace di esprimere le emozioni in maniera diversa, anzi l'avvicinarsi diventa importante. Quindi non esiste una regola fissa, esiste la capacità di mettersi nei panni degli altri. E allora a Serenella pensavo di far ricevere a casa piante cosmetiche per farsi delle coccole tutte naturali, preparandosi delle creme con ingredienti che trova nella sua dispensa in frigorifero. Un libro molto bello perché ha delle ricette semplici da provare. Marta, buongiorno da Foggia. Buongiorno. Buongiorno. Posso fare una domanda al professore? Deve. Voglio della faccia difficile, questo. Marta. Voglio proprio chiedere questo. Mi trovo spesso ad avere di fronte a me parlare con delle persone e capisco che c'è qualcosa che non va, ma mi ci tuffo dentro, sai, come una sfida e non so più come uscirne. È una bella domanda, difficile in realtà. E sono contenta, eccoli qua. Il vero punto è che bisogna ascoltare con grande attenzione il corpo all'inizio, no? Se il corpo ci manda un segnale scettico, bisogna in qualche maniera contenersi e cercare di analizzare la situazione oltre. Quindi io direi che credo molto nel corpo. Io personalmente, tutte le volte che non ho ascoltato la mia pancia, ho sbagliato. No. Ecco, quindi paradossalmente, eppure l'ho fatto e continuo a non ascoltarla talvolta. Però la pancia dice davvero molto, perché nasce dai nostri decenni di esperienze di vita. Un'ultima cosa che volevo dirti riguardo prima è questo. È vero che bisogna andare oltre l'apparenza, ma ricordiamoci che la natura, il polline, non l'ha messo per terra in un mucchietto di cenere, ma l'ha messo in mezzo a splendidi fiori, giusto o no? Certo. Quindi vuol dire che la natura spessa dice che la prima impressione è importante per attirare, quindi è qualcosa di molto naturale. Alberto, ritorniamo agli insegnanti, ci stanno scrivendo in molto, hai dato un suggerimento per gli insegnanti, qualche suggerimento per i ragazzi invece? Ma io credo che per i ragazzi essere accettati nel loro gruppo di... penso per esempio a mio figlio Jacopo, che entrerà in una prima media dove veramente non conosce nessuno tranne un compagno. Per me il messaggio chiave è essere se stessi, e immagino che per un preadolescente o un adolescente l'idea di non essere all'altezza della situazione sia molto impaurente, magari ansiogena. Direi, voi andate come siete. E l'altro aspetto è che siccome la media o il liceo, le superiori durano tanto tempo, non vi giocate tutto nel primo momento. Questa è un grande, grande risorsa. Quindi datevi tempo. Spesso stare in una posizione sulle retrovie, guardare, lasciar fare, entrare gradualmente laddove avete tempi lunghi a disposizione è uno straordinario vantaggio. E a proposito di ragazzi, io voglio segnalarvi un bel progetto. In linea con noi abbiamo, posso dire, professor Bernardo, l'ideatore, il coordinatore? Buongiorno intanto. Sì, buongiorno a voi. Sì, insieme a un caro amico e collega e soprattutto giornalista, Alessandro Calderoni. Ecco, stiamo parlando col professor Luca Bernardo, che è direttore della divisione pediatrica dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, che ha ideato questo servizio proprio a disposizione degli adolescenti, dandogli un nome curioso, pensate, di un grande navigatore cinese. Professore. Esatto. Si chiama Zeng il progetto, un amico per gli adolescenti e un amico in aiuto per gli adulti. Sostanzialmente siamo entrati dove normalmente i ragazzi e le ragazze vivono gran parte della giornata, purtroppo, cioè è online, è ad internet. creando il primo soccorso online proprio per gli adolescenti. E quindi vuole darci l'indirizzo, professore? Che lo passiamo anche ai nostri figli? Noi lavoriamo su Facebook, su Twitter, su tutti i maggiori social network. Basta cliccare Zeng un amico e i ragazzi e le ragazze possono... Stanno in rete. Ma la grande novità è che chi gli risponde sono loro pari. Solo in caso di aiuto particolare problematica si mette a disposizione esperti. Allora, intanto voglio ringraziare i miei ospiti, ringraziare voi che ci avete seguito. Scaricateci, quindi andate sul nostro sito, c'è podcast, scaricateci. Andate sul Daily Lab per il consiglio quotidiano e continuate a scriverci le ricette, ne stanno arrivando di buonissime. Oggi io proverò il gazpacho di verdure che mi ha suggerito un ascoltatore. Grazie, a domani, un bacio. Radio 24. La passione si sente.